Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Buongiorno a tutte e tutti. Oggi inizia su Radio Wombat una nuova trasmissione, Libri ribelli. In cosa consiste? Semplicemente leggeremo dei libri, non libri qualunque, libri che hanno formato generazioni di compagni, ma che spesso sono stati dimenticati o comunque sono poco conosciuti e spesso non facili da trovare in libreria. Non vi proporremo saggi pesanti, ma romanzi, secondo noi molto belli e di facile lettura. Non vogliamo annoiarvi. Le trasmissioni, come al solito, saranno poi disponibili come podcast e quindi scaricabili come audiolibri. Se possibile, renderemo disponibili sul sito di Radio Wombat i libri letti in formato PDF o EPUB. Ed ecco ora i titoli che leggeremo. La banda Bonneau di Bernard Thomas, Vogliamo tutto di Nanni Balestrini, Gli invisibili sempre di Nanni Balestrini, L'evasione impossibile di Sante Notar Nicola, Ormai è fatta di Horst Fantazzini, da cui è stato tratto un film con lo stesso titolo, Boxcar Berta di Berta Thompson, da cui è stato tratto il film America 1929, Sterminateli senza pietà. La banda Bonneau di Bernard Thomas. Capitolo primo. Parte prima. Come Bonneau andò a Parigi a dar fuoco alle polveri. Lione, 25 novembre 1911, poco prima di mezzanotte. Madame Tollon sobbalzò. Le era parso di udire un leggero rumore contro le imposte della camera, come il fruscio insolito di un ramo o come se fossero stati lanciati dei sassolini. Trattenendo il respiro, sollevò la testa e si mise in ascolto. Ma non udì altro che il brusio uniforme della pioggia, interrotto a tratti dal fischio del vento che indovinava gelido tra gli alberi. Tornò a distendersi con un grosso sospiro. Quando sarebbe tornata la primavera? Quando avrebbero potuto riprendere le passeggiate nel crepuscolo e camminare lungo i viali del cimitero, tra le tombe, dopo aver chiuso i cancelli, mentre Tollon si attardava al bistrò d'angolo o da sua madre? L'uomo al suo fianco non si era mosso. Sdraiato sulla schiena, le braccia allungate sopra la coperta, non si poteva dire se dormiva o no, come al solito. Poi si sentì l'urlo di una civetta, vicinissimo, sotto le finestre. Il tremolo dell'uccello notturno si prolungò, fu più acuto. A dire il vero, non aveva mai sentito delle civette di novembre da quelle parti. Subito l'uomo fu in piedi. «Dove vai, Jules?» mormorò con voce inquieta. L'uomo si infilò rapidamente i pantaloni, senza esitare, malgrado l'oscurità, e prese qualcosa sotto il materasso. Niente luce, tagliò corto, sentendola frugare sul comodino alla ricerca dell'accendino. Andò fino alla finestra, scrutando inutilmente nel buio. «Raggiungi Tollon», le disse, «ho da fare». «Che maniere», borbottò lei tra la paura e la collera, tastando alla ricerca delle pantofole. «Degli affari a quest'ora». Jules non rispose niente. C'era stato senza dubbio un contrattempo. Platano aveva ricevuto l'ordine formale di andare lì solo in caso di emergenza e in quasi 2 anni che lavoravano insieme non era mai successo. Tutti i giorni alle 8 del mattino si trovavano al laboratorio o in qualche baracca che chiamavano pomposamente così e nessun imprevisto poteva giustificare agli occhi di Bonneau che si venisse a disturbarlo nel suo ritiro. Tollon aveva fatto credere di essere un meccanico, un appassionato di aviazione, che sognava di costruire un motore rivoluzionario, un pioniere dell'automobile che era a volte costretto a viaggiare e a fare lavoretti nottetempo, e ci teneva in modo particolare a godere in pace di quella reputazione senza macchia. Un po' ansante, la bella Madame Tollon gli si avvicinò con i capelli scarmigliati sul viso energico. Jules sentì il suo corpo voluttuoso contro la spalla e si calmò un poco. «Jules, almeno non è una cosa grave», mormorò. «Non preoccuparti, Judith, un amico che fa degli scherzi, un idiota, ecco tutto. Ne sei certo? Venire a fare il verso della civetta a mezzanotte? Vai da Tollon, vai in camera sua, su, va». La sua voce era quasi tenera. «Se senti rumore, non muoverti. Ma se si sveglia, non c'è pericolo, con quel popò di assenzio che si è bevuto». L'irritante visitatore batteva ora con discrezione, con l'indice piegato sul vetro della cucina. «Jules!» chiamò due volte, con voce soffocata. «Che imbecille! Le sue imprudenze erano durate anche troppo». Madame Tollon fu spinta nel corridoio verso la camera di suo marito, che dava sulla strada. Lo si udì russare finché la porta di comunicazione rimase aperta. Poi Bonneau scese senza far rumore la scala della villetta. Una collera fredda gli serrava le labbra sottili. Se Platano aveva fatto una bestialità, se bisognava per colpa sua lasciare tutto, le pantofole, i manicaretti di Judith, le tranquille serate col bravo Tollon, che dava così poco fastidio, non glielo avrebbe mai perdonato. Parola di Bonneau. Girò la grossa chiave. La serratura scigolò. «Sei tu, Platano?» chiese. «Jules, siamo nei guai!» L'altro si infilò dentro grondante di pioggia, tirandosi dietro la fitta nebbia di fuori. Bonneau tirò il chiavistello. «Siamo fregati!» disse Platano, nel modo comico che gli era tipico di pronunciare il peggiore argot, arrotondando la R all'italiana. «Tite Louis mi ha messo nel sacco. Bella fortuna! Due madame a fare il nido nella mia tana. Naturalmente non sono rientrato. Credevano di pizzicarmi. Fessi, li ho fregati anche stavolta». Precedendo il suo complice, Bonneau accese la lampada a petrolio, che lasciavano sempre per ogni evenienza, sul tavolo di cucina. Mentre si dava da fare, il giovane biondo dai capelli crespi incollati dalla pioggia, il volto tondo illuminato da candidi occhi blu, si scrollava formando una pozza d'acqua sotto i piedi. Riversava un torrente di parole, spezzate, inframmezzate da sogghigni. Le mani gli tremavano. Bonneau regolò la fiamma, rimise a posto il vetro e si raddrizzò. A prima vista aveva un aspetto insignificante, le sopracciglia gibbose, il naso all'insù, con una sorta di solco orizzontale all'altezza degli occhi, affossati nelle orbite. Il labbro superiore lungo, interamente coperto da baffi rossi, il mento prominente, non bello, ma nemmeno brutto, molta difficoltà nel comunicare sicuramente, un tipo chiuso, le tempie e le gote incavate, la carnagione un po' fosca, con la pelle coperta dai segni di una vecchia acne. Ma non vi si faceva caso se appena il suo sguardo grigio-azzurro cominciava a fissarvi. Ne sprigionava una luce fredda che metteva a disagio. La lentezza e la precisione dei gesti inquietavano. Sembrava non li si potesse mai prevedere. Platano farfugliò ancora di più, scorgendo la Browning infilata nella cintura di Bonneau. «Non sei pedinato almeno?» chiese. «Figurati, con quello che c'è nell'aria. Quelle puttane non mi hanno nemmeno visto. Ho scalato il cimitero in modo che i curiosi non mi vedessero nella tua strada. È stata una vera bazza. Si può ben dirlo con quelle carogne. Se sono da te vuol dire che gli sbirri ti hanno identificato. E se sono da te, dato che sanno che lavoriamo insieme, non sono lontani di qui». Un lungo silenzio seguì alla perentoria dichiarazione. «Chi ha fatto la soffiata?» riprese Bonneau. «Nessuno, non capisco. Forse ci hanno visto dal notaio. Impossibile, non c'erano testimoni». «Allora forse è stato il notaio. Avremmo dovuto stenderlo, ti dico. Non voglio violenze inutili». Platano abbassò la testa con aria scoraggiata, Quel che è certo è che dobbiamo fidarcela, riprese. Sei stato imprudente a tornare a dormire qui, nonostante l'arresto di Petit de Demange. Poi, estraendo dalla tasca interna un fascio di banconote, ed è andata bene, avevo con me l'eredità, 30 testoni. Ci mancava solo che me li fregassero. Un lampo impercettibile balenò tra le palpebre di Bonneau. Mettili da parte, mi dai la nausea, carta straccia, e fai meno baccano, o sveglierai il padrone di casa. D'altronde, continuò a denti stretti, parli sempre troppo. Se blaterassi di meno, non ci troveremmo in questa situazione. Non sarò stato io alle volte, brontolò l'altro in tono offeso a mandarli da Petit Demange. Va bene, risparmia la saliva. Ne avrai bisogno quando sarai beccato. In realtà Bonneau non era tanto sicuro di non essere stato denunciato. Involontariamente, forse, ma Platano si era così infuriato quando, di ritorno da un viaggio in Italia, fatto per intascare un'eredità, aveva scoperto che Jules si era associato, senza di lui, con un onesto meccanico della Berlier, proprio Petit Demange. Un gran buon diavolo, per aprire un'officina di riparazioni. Smaltatura, nichelatura, tornitura, riparazioni, vendita, acquisto, scambio lavori, a richiesta, di tutti i generi. Una facciata che non avrebbe potuto essere più onesta al 23 bis sulla strada di Vienne. Poco dopo il ritorno di Platano, il 12 ottobre, Petit Demange era stato arrestato. La coincidenza era fastidiosa. Per principio Jules non si fidava di nessuno, nemmeno di un mite anarchico misantropo che non sognava, una volta fatta fortuna, che di andarsene nelle Pampas, lontano da ogni civiltà. Jules era stato fortunato se non si era fatto prendere. Era stato il farmacista ad avvisarlo. «Signor Bonneau, la polizia vi cerca, sono già venuti, quando non c'eravate». «Impossibile», aveva risposto Jules col sangue freddo abituale. «Che cosa possono volere da me? In ogni caso, vado a comprare il giornale». Un quarto d'ora dopo, gli ispettori erano tornati. Nel corso della perquisizione avevano trovato due motociclette, un mucchio di attrezzi e un generatore ad acetilene. Tutta roba rubata. Avevano portato via il povero Petit Demange, il solo innocente in tutto l'affare. Effettivamente, dopo questo brutto colpo, continuare ad abitare dai Tollon non era forse stato molto prudente, ma come si poteva fare altrimenti? Dati gli occhi di Judith, le labbra di Judith, la pelle di Judith, Jules lanciò un'altra occhiata furiosa a Platano, avvisandolo. Forse gli salvava la pelle, ma non importava. Non doveva sempre fare l'uccello del malaugurio. Con una malafede quasi cosciente, Jules lo riteneva responsabile delle sue disgrazie. Così, quel che aveva previsto accadeva. Ci aveva messo 4 anni per rimettersi in sesto, come diceva, dopo il colpo che era stato la separazione definitiva nel 1907 da sua moglie, e tutto era di nuovo in questione. Per l'imprudenza del suo socio, naturalmente, perché il nuovo rapporto avrebbe potuto durare ancora a lungo, ne era persuaso, a patto di comportarsi con discrezione. Forse che lui, Bonneau, teneva Judith al corrente delle sue attività? Di nuovo serpeggia in lui la rivolta, un odio sordo contro l'ingiustizia, come quando da piccolo il padre lo puniva senza ragione. Una voglia di uccidere a freddo, con la sensazione di essere perfettamente lucido. Prima sensazione del genere risaliva a Ponte de Roide, piccolo villaggio del Doubs, dove era nato, tra i camini della fonderia di Ghisa a 17 km da Montbéliard, quando a 5 anni, nel 1881, gli era morta la madre. Non che avesse sofferto molto per la disgrazia, era troppo giovane per capire. Ma 8 giorni dopo, quando il padre gli aveva dato il primo ceffone per averlo sorpreso a mangiare una lumaca, per la prima volta nessuna gonna lo aveva consolato. Suo fratello Justin si era limitato a sghignazzare, quello non era certo soffocato dalla carità cristiana. Ed era andato avanti così. Tutta un'infanzia priva di ogni tenerezza. Da un bisogno di carezze che 40 anni di vita non bastano a soddisfare. Era cresciuto tutto solo, aveva dovuto fabbricarsi una corazza contro gli scapaccioni del vecchio Bonneau, che a dire il vero non era un cattivo tipo, ma per il suo mestiere di operaio fonditore era poco portato a impietosirsi sui dolori del rampollo. Jules non era uno sciocco, questo era il guaio. Avrebbe potuto far bene se solo l'avesse voluto, ma dato che nessuno attorno a lui aveva la pazienza di stimolare la sua intelligenza, si buttò all'avventura. L'insegnante lo trovava pigro, indisciplinato e insolente. Naturalmente litigava sempre coi compagni di scuola. Bisognava metterlo alla prova, almeno una volta al mese, ma le punizioni, invece di piegarlo, rafforzavano sempre di più il suo rancore. Incominciò il crescendo dell'odio. Poi era venuta l'età delle ragazze. Esse avvertivano in lui tanti desideri repressi che lo prendevano in giro. Non era difficile prendersi gioco di lui. Le guardava con tale infelicità la domenica dietro le mura sbrecciate delle vecchie fortificazioni da trasformare anche la più dolce in una sgualdrina. Era così vulnerabile che ogni puntura di spillo gli spezzava il cuore. Si rifugiava nell'aggressività, oscillando incessantemente tra l'umiltà e la cattiveria. Si sentiva scorticato vivo. Lui in cerca di madre, loro in cerca di padrone, non funzionava. Il fratello era della stessa pasta. C'era da pensare se quell'idiota non aveva trovato di meglio da fare che suicidarsi, buttandosi nella crociera, col pretesto che una ragazza non era venuta a un appuntamento. Aveva 15 anni. Povero Justin. Malgrado i litigi continui, Jules aveva gli occhi rossi mentre seguiva il carro funebre. E anche in quell'occasione aveva sentito il desiderio di uccidere, per vendicarlo. Coi padroni si verificarono gli stessi malintesi che con le amiche. Non aveva la spina dorsale, abbastanza flessibile. Lo si trovò a brontolone, sempre pronto a rivendicare qualcosa con quella violenza contenuta che lo rendeva spesso pericoloso. Un cattivo elemento, un ragazzaccio. I migliori direttori di fabbrica erano dei paternalisti, non parliamo degli altri, ma lui, così come a 12 anni aveva cominciato a ribellarsi al padre, a 15 da apprendista rifiutò di piegarsi all'autorità dei sostituti del padre. Con quale diritto, in nome di che cosa pretendevano di continuare a dargli ordine e punirlo? 3 o 4 volte la cosa si concluse in gendarmeria. Piccoli furti che forse non aveva nemmeno commesso, ma di cui era subito sospettato. Quei truscioli di rame che sparirono misteriosamente alla fonderia di Fornerot. Quegli operai della fabbrica di Bourguignon che l'accusarono di voler assottigliare la loro paga. E poi, a 17 anni, la prima rissa al ballo. Jenny a Besançon, dove il padre si era appena stabilito a causa di una ragazza. Tante balordaggini che lo portarono ad avere, giovanissimo, una fedina penale sporca. Altrettanti alterchi con la polizia gli fecero nascere un odio terribile per gli sbirri. A 17 anni la mantellina azzurra era diventata per lui il simbolo di un ordine sociale ingiusto. A 17 anni, nel 1893, l'anno in cui Zola terminava i Rougon Macquart, l'anno in cui era scoppiato lo scandalo di Panama, in cui Dreyfus entrava alla scuola di Stato Maggiore, l'anno in cui per la prima volta dopo la strage di Fournier nel nord, quando il 145° battaglione di linea aveva sparato sulla folla che festeggiava il 1° maggio, provocando 38 feriti e 12 morti, 40 socialisti venivano eletti all'assemblea. Il gendarme non era più diventato il nemico. Il gendarme era già diventato il nemico numero uno di Bonneau. L'odio si accentuò con la lettura di opuscoli sovversivi e la compagnia di anarchici a Pont-Saint-Vincent, quando andò a lavorare alle ferriere, dopo che il padre si era trasferito a Neuve-Maisons, vicino a Nancy. Lì ci fu una rissa, un po' più grave, finì infatti con un cadavere ripescato nella Mosella. Dopodiché Jules prudentemente scomparve. Del resto non c'erano prove a suo carico. Infine, tre mesi dopo, il 27 marzo 1897, in un caffè di Nancy, una nuova rissa, selvaggia, violenta, la polizia intervenne col suo pugno di ferro. Fu un piacere per Jules dar mazzata nel mucchio. Percosse, oltraggio, ribellione. Tre mesi di carcere. Al suo rilascio il padre gli proibì di metter piede in casa. Si metteva dunque anche lui dalla parte della società, senza chiedersi se non aveva la sua parte di responsabilità nella carriera giudiziaria del figlio. L'ingiustizia toccava il culmine. Nella sua rabbia impotente, Jules colpì. Il pugno partì da solo. Il vecchio, come lo si chiamava, rimase stupefatto. Ebbe una reazione molto nobile. «Fuori di qui!» disse, fregandosi il mento. «Hai disonorato la tua famiglia. Ora picchi tuo padre. Ti maledico!» «Anch'io ti maledico!» Jules rispose. «Tu, i miei fratelli e mia sorella». Erano i fratelli e la sorella che il padre aveva avuto da un secondo matrimonio e Jules li detestava, come detestava la matrigna. Lasciò la casa con dignità, o almeno lo sperava. Si recò a Nancy e dopo qualche giorno di fame ebbe la fortuna di essere raccolto da una prostituta di buon cuore, che lo nutrì, lo alloggiò con tutto il resto. Fu lì che lo raggiunse la cartolina precetto per il servizio militare il 15 novembre 1897. Il 133esimo di fanteria di Belley nell'Ain fu per lui una specie di paradiso. Jules vi scoprì con un curioso piacere l'eguaglianza nella bestialità, il livellamento nella corvée delle latrine, incorporato come guastatore del genio, passò di grado nel 1900. Seguì i corsi da sergente e li completò. Casualmente si scoprì appassionato del tiro al fucile Lebel e per tre anni di seguito fu il campione della compagnia. Nemmeno una volta si ribellò alla disciplina del reggimento. Almeno lì si mangiava tutti i giorni a volontà, senza contare poi il prestigio dell'uniforme, che facilitava molto le relazioni col gentil sesso. Se ne accorse in occasione delle grandi manovre del 99. Gli era stato dato un biglietto d'alloggio per una fattoria nel comune di Vouvray, di proprietà di una vedova con molti figli, tra cui Sophie. Sophie, che con i suoi 18 anni aveva un modo di sollevare gli occhi dal lavoro quando egli rincasava di sera, esausto, infangato, cui nessuno avrebbe potuto restare insensibile. E soprattutto non lui, assetato com'era di tenerezza. Presero ben presto l'abitudine di conversare a lungo, di mille piccole cose la sera. Quando le aprì il suo cuore, lei non lo prese in giro, non gli disse di no. Ah, i progetti che architettarono in quel tempo felice, i giuramenti, le promesse, ah, se non ci si fosse immischiata la politica, se Bonnot si fosse accontentato di una semplice vita tranquilla, quando la sposò un anno dopo, dopo essere stato smobilitato il 14 agosto del 1901 sotto un sole sfolgorante. Si amavano, avevano tutto per essere felici. La Bourdet cedette la casa ai giovani sposi e partì per finire i suoi giorni a Ginevra. Sophie, sarta eccellente, ebbe numerose ordinazioni e Jules trovò lavoro al deposito ferroviario di Bellegarde, alla frontiera. Ma inevitabilmente Bonnot riprese ad agitarsi contro i padroni. Era più forte di lui, non sopportava il disprezzo e le conseguenze non si fecero attendere. Il suo nome venne scritto nella lista nera e non trovò più lavoro. Cominciò il pellegrinaggio, prima a Ginevra, dalla madre di Sophie. Vi lavorò da meccanico. Sophie mise al mondo una bambina, Emilie. Pazzo di gioia, Jules scrisse la notizia al padre. Forse la nascita avrebbe intenerito il vecchio, e così fu, ma la bambina morì in 4 giorni e la coppia venne espulsa dalla Svizzera. Per un anno trovarono rifugio a Nove Maison da papà Bonnot, ma riaffiorarono i vecchi motivi d'alterco, e poi Jules continuava a diffondere idee pericolose, che i padroni non avevano il diritto di arricchirsi sulla pelle dei lavoratori, ad esempio, o che le loro ricchezze erano rubate ai poveri. Fu necessario andarsene di nuovo. La Bourdet pretendeva di aver ottenuto per loro un secondo permesso di soggiorno. Tornarono a Ginevra, seconda espulsione. Tornarono a Lione. Gli inizi furono promettenti. Sophie ottenne la gestione di una latteria. Jules trovò diversi posti da meccanico presso costruttori di biciclette e anche presso un fabbricante di automobili. Era diventato uno specialista. 30.000 vetture a petrolio circolavano già in Francia. C'era bisogno di gente come lui. Là nacque un secondo bambino, Justin Louis, il 23 febbraio 1904. Fu un momento di gioia. Jules aveva le lacrime agli occhi, guardando la culla, e giurò che questa volta la smetteva. Basta col sindacalismo, tutto per la famiglia. Ma ahimè, ci fu uno sciopero. Poteva screditarsi agli occhi dei compagni? Poteva fare il crumiro, lui, che da tanto predicava la rivolta ai metallurgici nelle riunioni pubbliche? Vi prese parte. Era schedato. Venne individuato senza fatica tra gli agitatori. L'indomani si trovò disoccupato e a Sophie fu tolta la latteria. Era la miseria. Mandarono il piccolo a Ginevra dalla nonna e partirono per Saint-Étienne. La stessa storia. Un buon lavoro all'automoto, uno sciopero, arresto, rapporto di un commissario, soggetto dal carattere molto violento e soprattutto cattivo. Le informazioni raccolte sul suo conto sono sfavorevoli sotto ogni riguardo. Licenziamento, l'abisso. Centinaia di migliaia di persone erano nelle sue stesse condizioni in una epoca che alcuni hanno preteso di chiamare bella. Milioni di operai in Europa umiliati, affamati, alla mercé degli umori di un padrone che si ribellarono, vanno. Il che offriva ai padroni un ottimo pretesto per infierire un po' di più in nome dell'ordine pubblico e della legge. Solo che questa volta Sophie non ne poteva più. Le idee di Jules erano molto belle, la solidarietà, la libertà individuale, la rivoluzione, ma l'affitto da pagare, il credito rifiutato dal droghiere, la mancanza di latte per il bambino, l'ospedale quando Jules si ammalò di polmoni, erano una realtà. Non la riguardava che la società funzionasse male. Jules doveva solo comportarsi da capofamiglia, cosciente e organizzato, e conquistarsi un posticino da qualche parte, invece di costringerli, come ora, ad andare a mendicare l'ospitalità di Besson, il segretario del sindacato. Quando quest'ultimo spiegò alla Bonneau che il marito capiva in modo distorto le tesi anarco-sindacaliste, che esse erano per lui solo un pretesto per sfogare il suo livore naturale, la povera Sophie crollò. Besson faticò non poco per farla smettere di piangere. Ci riuscì solo andando a letto con lei. Quella sera, quando Jules volle rincasare, Sophie rifiutò di aprirgli. «Vattene, mi fai orrore!» gridava. «Non voglio più vederti, va via o ti denuncio alla polizia!» Jules sfondò la porta. Sophie si rifugiò tra le braccia del sindacalista. Allora Jules capì. Lo riprese un'irresistibile voglia di uccidere. Se avesse avuto con sé una Browning, avrebbe sparato sulla coppia adultera. Ci fu tra i due uomini una lotta violenta, ma Jules, reso maldestro dalla rabbia, ebbe la peggio. «Non sapete ancora chi sono», urlò. «Lo saprete quando si parlerà di me sui giornali». Prudentemente Besson portò per qualche tempo Sophie in Svizzera per metterla al riparo dalla vendetta del forsennato. Questa volta il cerchio era chiuso. Bonneau aveva imparato quel che valgono gli uomini, le donne, gli ideali. Dal tempo del reggimento aveva cercato di campare onestamente. Era stato respinto, schernito dappertutto e da tutti. Si trovò solo al mondo, fu assalito da una disperazione lacerante. Non avrebbe più avuto il minimo scrupolo, la minima umanità, non avrebbe potuto più credere a nulla, se non al fatto che bisogna essere il più forte. Corse dapprima in Svizzera, sperando di impietosire la moglie e di rivedere suo figlio, invano. Fece qualche furto, con scasso, particolarmente dall'ingegner Guénot, con una fiamma ostitrica che gli era costata più dei 150 franchi che asportò dalla cassaforte. con la polizia alle calcagna ripartì per Lione. Si impiegò nelle officine Berlier di Montplaisir. Il costruttore di camion commise l'imprudenza di fargli ottenere la patente. Il 17 settembre 1907 alla società sarebbe costata cara. Solo il suo amore per la meccanica lo tenne a galla per qualche tempo. Quando guidava gli pareva che il motore della macchina girasse nel suo ventre. Poi a poco il desiderio di rivincita crebbe, si gonfiò, lo sommerse. La sensazione profonda di essere di una qualità superiore rispetto ai miserabili che lo avevano mortificato, ingannato, picchiato, sfruttato, era disprezzato, cornuto? Gli portavano via suo figlio che adorava? Era povero in canna? Era troppo piccolo? Era stato troppo ingenuo? La sua vendetta sarebbe stata terribile. Quella di rigenerare la società era stata un'idea grottesca. Tutto, da cima a fondo, era marcio. D'ora in poi sarebbe stata la guerra. Jules architettò meticolosamente, scrupolosamente, con collera fredda, il suo piano di battaglia. Cominciò con l'associarsi con un compare in un affare di slot machine americane. Ma non rendeva a sufficienza. Fabbricò allora dei gettoni falsi per rovinare la marca rivale. Ma la truffa gli parve ben presto insufficiente. Si mise allora a fabbricare soldi falsi. Per 2 mesi ogni pezzo messo in circolazione gli procurò la sensazione squisita della vendetta. Ma un giorno fece i conti. Stava spendendo in questo affare più di quanto non ci guadagnasse. Cambiò formula. Si associò con diversi anarchici, tra cui Platano, l'italiano detto anche Mandino, Mandolino o Sorrentino, e si lanciò nel furto di moto e di bici. Nella maggior parte dei casi andava a rubarle in Svizzera, paese che conosceva bene. Smerciava il materiale a Lione, a Nancy, a Parigi e in qualsiasi altra città, grazie ad anarchici che non sapevano dove ciò li avrebbe portati. Una volta messa a punto questa tecnica, passò al furto di automobili. Nessuna difficoltà nell'esecuzione. I ricchi proprietari di limousine, di sedan o di phaeton generalmente avevano un garage privato, esterno alla casa in cui vivevano. Bastava aprire il catenaccio, poi spingere la vettura lontano, abbastanza perché il borghese non udisse il rumore della manovella. Il suo stock crebbe talmente che dovette aprire diversi magazzini, uno al 63-65 di Rue Voltaire, l'altro a Saint-Clair, un terzo al 27 di Chemin de Héridoux a Montplaisir e un quarto in Rue Montgolfier. Ma una piccola difficoltà impediva al commercio di prosperare. La mancanza di documenti rendeva infatti difficile la vendita delle vetture. Malgrado l'attività incessante, a tratti la solitudine lo soffocava. Non avrebbe mai più avuto amici. Aveva orrore degli ubriachi da osteria, con gli occhi vitrei e i cervelli appannati. Detestava i professionisti del milieu, truffatori di bassa lega, apache, presuntuosi, palloni gonfiati. Tornò a trovare la moglie. La supplicò di tornare a vivere con lui. Pianse, minacciò, giurò di tornare ad essere l'onesto operaio che aveva conosciuto, purché gli lasciasse almeno vedere suo figlio, glielo lasciasse educare, gli permettesse di insegnargli ciò che sapeva, evitargli le sofferenze che lui aveva subito, di amarlo, di esserne amato. Lei lo buttò fuori, lo trattò da bandito, da furfante, da canaglia. Piuttosto morire che lasciarlo in contatto col piccolo. Bonneau, uscendo di lì a testa bassa, trovò una camera in affitto presso il guardiano del cimitero delle Guillotierie, sulla strada di Vienne. La pace delle tombe lo affascinò subito. I morti e i cani, del resto, erano ormai i soli esseri con i quali non erano fuori legge. Ma i cani sono sporchi e rumorosi, mentre i crisantemi dei giorni dei santi ai piedi delle croci ricordano in silenzio l'uguaglianza di tutti di fronte al nulla. Decise così di installarsi. La calda presenza di Judith fece il resto. Ella non lo giudicava. Il suo petto accogliente era un rimedio sovrano contro le avversità. Quanto a Tollon, passava la maggior parte delle serate fino alle 10 con la madre costretta all'immobilità di un attacco di paralisi. Un anno dopo questa sistemazione c'era stato un contrattempo. Era il 26 gennaio del 1909. Gli agenti della Sûreté erano apparsi all'improvviso alla Guillotière col pretesto di una vecchia storia di percosse e di ferite. «Bonneau non è in casa», giurò il buon Tollon. Ma un ispettore lo spinse da parte e scoprì Jules tranquillamente seduto al tavolo di cucina. «Judith grida». Tollon si intromette. Jules si dibatte. Ciononostante lo portano via. Ma sono costretti a rilasciarlo. I poliziotti hanno avuto un bel mettere a soqquadro tutta la casa. Non hanno trovato niente. Il fatto è che Jules si era costruito dei nascondigli diabolici, uno in una tomba di famiglia, un altro in camera sua, uno stipite schiodato sul lato dell'armadio a muro a ridosso del cammino, un mattone rimosso, un buco scavato dietro il focolare, inoltre un terzo posto simmetrico al primo rispetto al caminetto. È là che nasconde i suoi tesori, il che attualmente significa 8 cannelli ossi acetilenici, rulli di monete false da 5 franchi, un binocolo, prodotti chimici, un curvimetro, un calibro a corsoio, dei pezzi di meccanica di precisione, trapani, bombole di ossigeno, 4 manometri bue manuali. Come servirsi della canna ossitrica e il manuale rivoluzionario per la preparazione delle bombe. E infine un bel flacone di nitroglicerina. Perché Jules univa a qualità spiccate di uomo d'azione un gusto spiccato per il perfezionismo. Tuttavia, verso il 1910 si era messo a sognare grandi cose, un progetto straordinario, il colmo della felicità, ammucchiare abbastanza denaro per ritirarsi con Judith da qualche parte all'estero e trascorrere insieme giorni tranquilli, senza storia. Aveva anche incominciato a farle prendere lezioni di inglese e di tedesco. Ma come far fortuna? Bonneau, tra i marmi, rifletteva. Una sera gli venne un'idea. L'errore consisteva nel considerare il furto di auto fine a se stesso. L'automobile, mezzo di trasporto, segno esterno di ricchezza, deve essere utilizzata come un mezzo. Un viaggio a Londra lo confermò. In questa opinione era stato per qualche settimana l'autista di Conan Doyle, il padre di Sherlock Holmes. Un uomo di fervida immaginazione, la cui conversazione era molto istruttiva, quando si decideva a parlare in francese. Tornato a Lione, a forza di pensarci su, di avanzare obiezioni e confutarsele, di notti insonni, Bonneau mise infine a punto una tecnica che giudicava buona. La metterà alla prova con Platano, il miglior complice che abbia sotto mano e che possiede una qualità notevole, il coraggio. Il giorno fissato, i due complici, vestiti correttamente, si recano in macchina da un notaio, di cui hanno precedentemente preso l'indirizzo. Mentre gli espongono i progetti fumosi relativi alla creazione di una società, studiano il luogo. Poi, impassibili e dignitosi, si congedano. La presenza dell'automobile conquista loro la fiducia del notaio, che si interessa anche, con una punta di invidia, delle caratteristiche della loro vettura. Non resta che sorvegliare gli orari della casa e farvi ritorno tranquillamente di notte, trasformati in ladri muniti di grimaldello, di piede di porco e di fiamma ossidrica. L'idea si è rivelata eccellente. Il colpo riesce molte volte. Avviene in particolare. Nella notte tra il 19 e il 20 aprile 1911 una cassaforte ha procurato un bel gruzzolo, 36.000 franchi in oro e in banconote. Un colpo notevole. Lo dovrà ammettere lo stesso avvocato Girard. Il suo studio è situato al pian terreno, all'angolo tra Place Saint-Paul e Rue Vacanson. Jules e Platano hanno scelto una notte di pioggia torrenziale, elemento indispensabile per coprire il rumore. Hanno tagliato un'imposta di legno, rotto un vetro e sono penetrati senza fatica nell'ufficio. Poi il cannello ossi acetilenico, nuovo fiammante, ha permesso loro in 20 minuti di aprire un foro di 30 centimetri nello sportello della cassaforte e diffondere la cassa di ferro situata all'interno. Dopo questo successo sono rimasti quasi tranquilli. Platano è andato in Italia, Jules si è soprattutto preoccupato di truccare e smerciare il materiale che era ammassato nei depositi. Ha aperto con Petit Demange l'officina della Rue de Vienne, si è fatto insomma una buona reputazione. È anche riuscito a far alloggiare Petit Demange dai Tollon. Tanto la sua vita è tranquilla. Poi, primo allarme, il socio irreprensibile finisce sotto chiave. Bonneau prende il largo per qualche giorno, non dimentica però un progetto elaborato da tempo. Nella notte tra il venerdì 17 e il sabato 18 novembre va ad appostarsi in macchina accompagnato da Platano nei pressi della linea ferroviaria Parigi-Lione, vicino a Saulieu, in un posto fissato in precedenza. Al passaggio del treno, un complice lancia dal vagone postale un sacco contenente oggetti e lettere raccomandate. Non c'è che da raccoglierlo. Poi si rientra a Lione per dividere il bottino. Tutto sembra calmo. La polizia sembra in imbarazzo. Non ha indizi. Jules va tranquillamente a dormire dai Tollon. E poi ecco che Platano arriva con l'aria stravolta ad annunciare che il tempo si va guastando. È chiaro che c'è un responsabile. I poliziotti non sono così furbi da scoprire la loro pista da soli. Chi ha parlato? Chi ha commesso un'imprudenza? Sono questi i motivi per cui, in questa piovosa notte di novembre, gli occhi di Jules Bonneau fissano il biondo Platano con uno scintillio metallico inquietante, ed ecco perché quest'ultimo si sente improvvisamente a disagio. La voce ansiosa dell'italiano nella stanza silenziosa fece l'effetto di una scarica elettrica. Bonneau trasalì. «Jules! Ehi, Jules, che ti succede?» Sbatté le palpebre più forte, facendo ritorno alla realtà. Si accorse che per pochi secondi aveva permesso che il suo volto rivelasse i mostri che lo perseguitavano. Non bisognava, mai. Un essere superiore deve in ogni momento sapersi perfettamente padroneggiare. Si versò dalla brocca posata sull'acquaio un gran bicchiere d'acqua, che bevette contemplando nella cornice di legno appesa al muro il ritratto dei Tollon, sormontato da un ramo di vischio. Ora bisognava far presto. Lanciò un'occhiata all'amico, che chissà perché aveva davvero un'espressione da menagramo. «Filiamo», disse. «E dove?» «A Parigi». «Stupendo», esclama Platano. «Si potrebbe avviare un'attività nei dintorni di Parigi, a Choisy-le-Roi, per esempio. C'è un compagno, Dubois, che forse ci darà un locale, e poi questo mi consentirebbe di darne una parte ai compagni dell'anarchia, in modo che si comprino una nuova tipografia». Lasciando il socio alle sue divagazioni nella piccola cucina, Bonneau risalì in camera, indossò il suo unico vestito nero, prese dall'armadio a muro una valigetta di cuoio e vi ficcò accuratamente le due camicie di ricambio, colletti, polsini, il necessaire da toilette e diverse spazzole, spazzolini per i denti, i capelli, gli abiti, le scarpe di cui faceva largo uso. Sotto l'asse inferiore che spostò, recuperò il suo arsenale, 100 cartucce e 5 Browning. Armarsi non era un problema in quei tempi, tutti i calibri erano venduti liberamente. Ne mise 3 nella borsa assieme alle munizioni e divise il resto nelle varie tasche. Sentendo scivolare la porta, chiuse frettolosamente la borsa. Era Judith. Sopra la camicia da notte aveva indossato una vestaglia e stava immobile nel vano della porta, la lampada a petrolio in mano, pallida, più bella che mai. Non le aveva mai mostrata, per non preoccuparla, la sua artiglieria. Nonostante il volto ardente, non era sicuro che fosse una passionaria. Del resto, nel gentil sesso, apprezzava soprattutto le qualità di donna di casa. «Parto per un viaggio», le disse subito. «Per molto tempo? Non lo so. Qualche settimana, forse un mese o due». La povera donna crollò sul letto e tutti i buoni propositi di Bonneau sparirono. La prese tra le braccia, affondando il volto nei suoi corti capelli castani. Gliela farò vedere, Judith, te lo giuro. Gliela farò vedere a tutti quei porci. L'autentico dolore di doverla lasciare si mutava in stizza, in collera. Ti darò dei vestiti, come quelli delle borghesi. Avrai la tua parte della torta. Judith, anche se sarò costretto a stendere tutte quelle carogne. Ma io non voglio niente. Io voglio solo vivere in pace. Me ne vado solo per poco e poi tornerò a prenderti. Vedrai. Affitteremo una casetta nel mezzogiorno. Lasceremo Tollon ai suoi becchini. Si svincolò dalle sue braccia e la guardò a lungo, come per aspirare una boccata di innocenza prima del tuffo. «Maledizione!» disse. Poi prese la borsa, sulla soglia esitò, si volse. «Jules mio!» mormorò lei singhiozzando. «Bisogna che tu sappia una cosa!» disse. «Anche se ti raccontano delle balle su di me, io sarò sempre all'altezza della situazione. Puoi avere fiducia in me. Non muoverti di qui. Aspetta notizie!» Uscì. La donna udì il rumore dei passi affievolirsi sulla scala, un brusio di voci in cucina. Jules infilava il cappotto, si metteva il berretto, il chiavistello della porta di fianco al cimitero. Dio mio! Nella fretta aveva dimenticato la sciarpa che lei gli aveva sferruzzato. La prese dall'armadio e spalancò la finestra. «Jules! Jules!» chiamò a bassa voce. «Cosa?» rispose lui cautamente. «Hai dimenticato la sciarpa, te la butto!» La sciarpa cadde nel fango, ai suoi piedi, la raccolse. «Grazie!» disse. «Arrivederci!» «Addio! Rientra, prenderai freddo!» Questa volta Bonneau era definitivamente partito. I due uomini, dopo aver scalato il muro del cimitero, si incamminarono per la strada di Vienne, verso il loro deposito segreto. Arrivati nelle vicinanze, si fermarono per qualche minuto, scrutando invano nell'oscurità, con gli orecchi tesi. Bonneau teneva la mano sul calcio di un revolver, ma era impossibile distinguere qualcosa a 3 metri di distanza, nella nebbia fitta, eccetto che nelle strade in cui tremolava la luce delle lampade ad arco. «Che razza di pioggia!» mormorò Platano, inciambando in una pozzanghera. «Taci, maledizione!» Fare i pochi passi che li separavano dalla baracca voleva forse dire cadere in una trappola mortale, tornare indietro, aspettare l'alba per prendere un treno, voleva dire aumentare la possibilità di farsi prendere. Più perentoria di ogni logica fu la pioggia a deciderli. Non potevano continuare a gelarsi i piedi. Avanzarono con prudenza. Nulla si mosse. Senza dubbio il cattivo tempo aveva scoraggiato gli spiriti dall'organizzare una caccia per tutta la notte, a meno che non avessero ancora scoperto l'indirizzo del capannone. Platano si diede da fare col lucchetto, mentre Bonneau si teneva discosto, pronto a vender cara la pelle. Ma andò tutto bene. La Buir, verde oliva con la capote grigia, una 18 cavalli rubata a Vienna all'inizio dell'anno 17 gennaio a un certo Merlin, industriale dell'Isère, li attendeva nascosta, scintillante di tutte le sue cromature. Jules aveva fatto un buon lavoro, aveva modificato il numero del motore, 1231 invece di 1237, aveva tolto la placca col nome del proprietario e aveva dipinto un nuovo numero di targa, 71S2. La S indicava la circoscrizione di Saint-Étienne. Dietro c'erano 2 Terreaux, completamente nuove, che era gioco forza purtroppo abbandonare. Jules Bonneau posò la borsa sul sedile posteriore, sollevò il cofano, prese una candela dal banco, la accese, si piegò sul motore, azionò la pompa della benzina, allacciò i fili della batteria, girò la manovella. Al quarto giro i pistoni si misero a ansimare. Tutto l'insieme si inghiozzò, tossicchiò, scoppiettò, protestò. Dei cani si misero a urlare. Bonneau regolò accuratamente l'accensione, chiuse il cofano, spense la candela e infilò uno di quegli impermeabili neri chiamati caucciù, mise un perretto, infilò dei grossi occhiali e si sedette al volante. Platano gli si appollaiò accanto. La tragica cavalcata aveva inizio. Libri ribelli. ha ridotto già vecchi. Libri ribelli.